C'erano una volta nel nostro paese Sofronia e Rasputin, due cuochi leggendari, forse i migliori al mondo. Avevano solo una cosa in comune: il carattere pestifero. Sofronia era una donna vigorosa, con i capelli color pannocchia e gli occhi blu. Alla fine della guerra il padre era sparito e lei era cresciuta con la madre, una bella contadina che coltivava un orto e un erbario. Da lei aveva appreso tutti i segreti della verde natura. Sua madre tentò più di una volta di trovare un nuovo compagno, ma non appena entravano in casa gli uomini, questi si ammalavano di strane diarree e febbri maligne. Ma quando la madre morì, Sofronia sposò un ricco contadino, ma anche lui, dopo una zuppa squisita, finì al camposanto. Qualcuno allora cominciò a indagare su quella morte misteriosa e così Sofronia preferì andar via. Vabbè, scappò. Arrivò in Francia, dove si presentò al grande cuoco Birotteau per lavorare nel suo ristorante. Il raffinatissimo chef, vedendo l'agreste fanciullona, distrattamente le domandò: «Me la sapresti fare una frittatina con qualche, vediamo, erbettina?» «Sì, signore. Ne preferisce una con alchimilla, anice, borragine, centella, citronella, tre zampe, coriandolo, damiana? O con glucomanolo, maggiorana, mentalispa, pirigallia, forse no, gliela preparo con limonicchio, rodiola, rosmarino, spirulina, verbena e semi di pastorella. Sempre che lei sappia di cosa sto parlando.» Birotteau capì di avere davanti a sé un grande talento. Una donna per cui la natura non aveva segreti. Sofronia conosceva ogni foglia, ogni radice, ogni verdura ed era pronta a comporli con acutissima sensibilità. E si intendeva anche di uova e latticini, Ma, e dico ma, non cucinava né carne né pesce. La cuisine verte di Sofronia divenne presto celebre, tanto che Birotteau si ingelosì. E prima di finire vittima di qualche ravanello assassino, la licenziò. E così Sofronia ritornò in patria. Aprì una trattoria qui, appena fuori Montelfo, in un borghetto soleggiato. Coltivò un erbario meraviglioso che spandeva il profumo in tutta la valle. C'erano solo 5 tavoli alla sua trattoria ed essere ammessi a quel giardino di delizie era un'impresa difficilissima, perché se qualcosa nello sguardo del cliente non le piaceva, Sofronia gli voltava le spalle con un «va via, gramigna». Quel luogo era un paradiso di aromi e di misteri. E sì, perché c'erano tra gli ingredienti della cuoca alcune erbe che soltanto lei conosceva, come il famoso sofrolio. Verdura che coltivava in un orto nascosto. Neanche i botanici sapevano esattamente di cosa si trattasse. Chi lo diceva somigliante a una grossa zucca palla, chi dotato di braccia e di gambe come un marziano, chi di notte zompettava per andare a bere la rugiada. Una sola cosa si sapeva con assoluta certezza: il sofrolio era di una bontà inimitabile. La trattoria Fleur Sofronia divenne l'attrazione della valle. Sì, e prese 5 stelle da tutte le guide gastronomiche del paese, tranne dal Gusta all'Igusta di Alfio Taracco, il gastrocritico più severo, più esigente, più cinico, più infame, più... Insomma, mancava solo il suo severissimo giudizio, ma Sofronia non era affatto intimorita. E non era vanitosa. I suoi fermi occhi blu trattavano allo stesso modo il ricco gourmet e il goloso locale. Ma, e dico ma, qualcuno si preparava a minacciare i suoi trionfi. Davanti alla trattoria c'era infatti un vecchio casolare diroccato. Un giorno arrivarono degli operai e iniziarono a riparare, ristrutturare, ricostruire. Poi arrivò un camion e scaricò una cucina Ravanel, la cucina più pregiata del mondo. Perché tutti questi preparativi? Chiese Sofronia agli operai. E che non lo sa, signora? Qui ci viene una grande trattoria e l'apriranno fra poco. Cucineranno solo la carne, chiameranno il Carnazza. E dopo un mese, da un furgone stracarico e traballante scese l'atteso e misterioso chef. Era un orco alto 2 metri. Portava i capelli ritorti in treccioni neri, ognuno dei quali terminante in un fiocco a coda di leone. Una folta barba gli scendeva giù, giù, fino alle ginocchia. Baffi dritti come spade. Aveva lineamenti orientali con zigomi aguzzi, occhi verdi lampeggianti di follia. Insieme a lui scesero dal camion teste di volpi e di cinghiale, serpenti imbalsamati, chiappe di ippopotami, musi di squali con la bocca spalancata. In una mano reggeva il lungo spiede e nell'altra il coltello. Era il grande cuoco Rasputin! Perché se Sofronia era cuoca di erbe, Rasputin era cuciniere di selvaggina e carne. E il suo coltello era sempre insanguinato, come quello di Sofronia era sempre profumato. Era ovvio che i due fossero incompatibili. Sofronia commentò: «La natura è armonia e bellezza. Le piante e le erbe sono state date all'uomo per nutrirlo, invece di aggredire i suoi fratelli animali». E Rasputin rispose: «La Bibbia dice: tu uomo assoggetterai gli altri animali e darai loro tremore e terrore». Il primo cibo umano fu quasi sicuramente una profumata radice. Cuocere e cucinare, ecco l'unica superiorità della cultura umana, misera e degenere in tutte le altre forme. Meglio cuocere una tenera fogliolina. Il primo uomo che mise in bocca una fogliolina la sputò, ne ricavò una diarrea. L'arte di combinare la verde linfa del mondo, questa è la cucina. L'arte di combinare sangue, tendini, animelle, questa è la cucina. Tutti sono capaci di confezionare cibo, commettendo delitti e impilando cadaveri. Tutti sono capaci di raccogliere una carota. Le carote non scappano. Erano diversi. Diversi, diversi, diversi, che più diversi non si può. La cucina di Sofronia riluceva di igiene e nitore, le pareti ben pittate, le pentole ordinate, si cantava mentre si cucinava. La cucina del Carnazza, un antro infernale, pignatte affumicate, schizzi di unto e sangue in ogni dove, ruttipeti e bestemmie trionfavano tra il ribollire e il rosolare. Le aiutanti di Sofronia, Barbara e Bietola, bionde, belle, gentili, e con loro la vecchissima Tegamina, che usava il mattarello come Toscanini la bacchetta. Al Carnazza invece c'era la Checca, una vampira vecchia con soli 4 denti e una mano paralizzata, ma con l'altra, con l'altra poteva confezionare fino a 3000 tortellini in una sola ora. E poi c'era Caco, un gigante obeso che ammazzava le mucche a cazzottoni. Da Sofronia regnava la calma e la gentilezza, ma se qualcuno le chiedeva la maionese o non finiva la frittata, lei lo sbatteva fuori senza appello, perché Sofronia faceva entrare solo chi voleva lei. Al Carnazza, del resto, se a Rasputin gli chiedevano il menù, lui rispondeva: «Perché mangia la carta lei?» E se qualcuno lasciava nel piatto un osso mal spolpato, povero lui, erano calci in culo, perché Rasputin faceva entrare solo chi diceva lui. Insomma, erano 2 fuoriclasse. Solo uno, però, poteva ambire alla 5ª stella d'eccellenza dell'infamissimo gastrocritico Alfio Taracco. E la battaglia iniziò. Sofronia espose il suo menù. Menù del giorno: insalata di ovoli alle erbe di bosco, bavette al sofrolio, erbazzone sofrogliato alla Baudelaire, sformato ma non troppo di verdure sofrogliate, formaggi al profumo di tramonto. Ma anche Rasputin espose il suo menù del giorno. Menù del giorno: insalata di ovuli molto più buoni degli ovuli di quella là, ciabattoni allo stomaco di lepre, risotto alla beccaccia, stenco di santo ai frutti di bosco, gargaleone in umido e per finire formaggi puzzoni invecchiati al Madera. Tiè! La battaglia si dimostrò subito accesissima. I due erano alla ricerca di nuove ricette. Ogni notte Sofronia spariva nei boschi e tornava solo all'alba con un sacco enorme. Forse era pieno del misterioso soffrolio. Anche Rasputin si dava da fare. Lui e Caco uscivano con lo schioppo a tracolla e nel buio della notte si udivano botti, bramiti, guaiti di agonia. Una mattina all'alba qualcuno giurò di aver visto Caco trascinare dentro la trattoria il corpo di un animale gigantesco. Era forse il mitologico, squisito Gargaleone. Ma, e dico ma... Alfio Tarà si sarebbe sicuramente presentato in incognito. Il travestitismo era la sua specialità e due dovevano essere sempre pronti ad accoglierlo. L'attesa non fu lunga. 6 sere dopo l'esposizione dei menù, una macchina con autista si fermò proprio davanti al Fleur Sofronia. Ne scese una signora assai vistosa, seni prorompenti, tacchi a spillo e una magnifica conciatura alla Greta Garbo. Onde morbide le incorniciavano il volto, scoprendo solo un orecchio dal quale, a guardar bene, spuntavano dei peli. Gli occhi di Sofronia allora scesero giù, giù, fino ai polpacci, vigorosi come quelli di Bartali. Alfio Tarek si presentò come contessa de Croissant e dopo essersi accomodata consultò la carta dei vini. Il suo dito indicò un erborino della cantina Tre Palle. Vino meraviglioso, conosciuto solo dagli intenditori. Non c'erano più dubbi, quella sciantosa era Alfio Taracco. Alfio de Croissant assaggiò gli gnocchi di cimiteria, i tortelli all'erba misterina, l'erbazzone alla Baudelaire. Il suo volto era radioso, ma quando arrivò la mousse di soffrolio chiuse gli occhi e quel sapore a contatto col palato divenne musica. Non resistette e chiese: «Madame, ma cos'è questo soffroglio?» «Mi dispiace, conte. Pardon, contessa. Ma una cuoca deve pure aver qualche segreto, no?» «Ah, già!» Ma da come ingurgitò l'ultimo boccone e sorrise, Sofronia capì che ormai la quinta stella d'eccellenza era vicina. Giunse la crema arcana ai 15 funghi. La contessa ne delibò un cucchiaio. Poi roteò la posata in atto di gioiosa approvazione e ancora poi, un po' brilla del Tre Palle. «E madame, excusez-moi, vorrei provare a indovinare i componenti di questa sublime crema. Non mi dica niente. Donc, ovoli, porcini... Sicuramente cantarelli, chiodini, sì. Ah, un sanguinello, non è vero? Una nuance di bubolline. Bilice, trilice, cilice, villice, sicuramente. Oh, l'amaro! L'amaro secondo me è dato dalla russola. Non mi dica niente. Dorata, maggiore, faggeta. E poi... E poi? Beh, mi dia un aiutino almeno, no? Ne ho indovinati 14, ma il 15esimo proprio non riesco a riconoscerlo. È un fungo rarissimo. Si chiama peveraccio solitario, perché cresce solo nei luoghi più bui e segreti. È quasi identico a un fungo molto velenoso, il peveraccio delle coliche. Guai a confonderli però, perché quest'ultimo contiene una tossina micidiale che se ingerita... Ma contessa, cos'ha? Non si sente bene? La contessa Alfio Taracco, dopo aver intonato un rantolo penoso, si mise a sudare e sotto gli occhi attoniti di Sofronia iniziò a gonfiarsi. Il reggiseno esplose, sparando in aria l'imbottitura di polistirolo, sembrava nevicasse. La parrucca schizzò via dalla testa, infine con diabolica sincronia la contessa lanciò un geyser di vomito verso il soffitto, un getto di merda verso il pavimento dove finalmente stramazzò. Cos'era accaduto? Ebbene, Rasputin aveva messo in atto il più crudele dei sabotaggi. Aveva corrotto la bella Barbara, assistente di Sofronia, promettendole di mandarla in televisione al programma Tegame, oh mio Tegame. Poi le aveva consegnato un piccolo pezzo del diabolico fungo, convincendola a mescolarlo di nascosto alla crema arcana. Non succederà nulla di grave, è uno scherzo, vedrai, solo una piccolissima colica. Tutto finì sotto silenzio. Eh sì, perché Alfio Taracco non poteva certo ammettere che un intenditore come lui avesse mangiato un fungo velenoso. Sofronia fu cancellata dal gusta all'igusta. Rasputin se la rideva. Sofronia non gli disse neanche una parola. Ora aspettava solo un'occasione per vendicarsi. E l'occasione capita sempre. Si venne a sapere che il presidente russo Putankov sarebbe stato ospite del premier patrio per un delicato affare di caviale, missili, petrolio e gnocca. Putankov, da cacciatore e grande gourmet, volle recarsi al celebre Karnaza. In quell'occasione Rasputin preparò, oltre al celeberrimo gargaleone in umido, il risotto sadico alle rane zoppe. E il gran giorno della vendetta arrivò. Dalla finestra Sofronia osservava la scena. 6 auto blu si fermarono davanti alla trattoria. Rasputin, per una volta ghindato di bianco, fece accomodare il premier, il presidente russo e la scorta. Il pranzo iniziò con grandi brindisi e bicchieri che volavano. Il premier raccontava barzellette penose, tutti fingevano di divertirsi. Putankov mangiava 4 palmenti, sbaffò le tagliatelle, rase al suolo la lepre, schiantò le quaglie, compresi gli ossicini, ma il momento clou doveva ancora arrivare. Era risaputo che Putankov era particolarmente ghiotto di giovani rane e così aspettava con impazienza il risotto sadico alle rane zoppe. Quando arrivò la grande zuppiera, scoppiò un applauso. Per Putankov sembrava la cupola di San Pietroburgo, per il premier il culo di una nota attrice. Finalmente Caco alzò il grande coperchio e un centinaio di rane spellate e bollenti, ma vive e verdi dalla rabbia, attaccarono i commensali. Alcune gli saltarono in faccia, altre dentro le camicie, altre ancora direttamente in bocca. Una con gli occhi fuori dalle orbite, come se avesse un conto personale con lui, saltò in testa al premio e gli incendiò la capigliatura sintetica. Un'altra, grossa come un rospo, si tuffò direttamente nelle braghe di Putankov e un'erotica danza iniziò. La scorta sparava, le rane rimbalzavano, i tavoli volavano, il risotto straripò. Quando il combattimento finì, 112 rane erano morte, 2 uomini della scorta gravemente feriti, il premier scotennato e Putankov ovviamente coi marroni lessati. I giornali furono invitati a non pubblicare la notizia. Sofronia si era vendicata, aveva corrotto Caco, promettendogli in sposa Bietola, la sua assistente, di cui il gigante era innamorato. Così Caco, all'ultimo momento, aveva aggiunto al risotto satico una 50ina di rane vive spellate, ma spellate solo a metà, scatenando così la loro ultima furibonda collera. Caco venne mandato in Siberia a cucinare quadrucci in brodo e il Karnaza di Rasputin venne chiuso. Forse quella notte Sofronia vagava per i boschi come una sonnambula. C'era la luna piena e i cani ululavano. Avrebbe voluto essere lieta della sua vendetta, ma qualcosa le opprimeva il cuore. A un tratto sentì una voce. Era una voce roca, cavernosa, ma la canzone era piena di dolcezza. Così seguì la melodiosa traccia e vide Rasputin, che appoggiato a un albero cantava. Che traspiri fragranze lontane. Quando anche lui la vide, Sofronia tentò di fuggire, ma Rasputin la agguantò e la stritolò in un abbraccio. Sofronia, vecchia troia vegetariana, sei stata grande! Solo tu potevi inventarti il trucco delle rane spellate a metà. Ma allora non sei arrabbiato? Arrabbiato? Io? Non mi sono mai divertito tanto, Sofronia. Io odio quel corrotto di Putankov. E quando ho capito che tu e Caco stavate tramando qualcosa, mi sono detto, lasciamo fare alla vecchia Sofronia. Si prenderà lei poi tutte le colpe. Voleva essere arrabbiata con lui, ma gli occhi di brace di Rasputin le infondevano uno strano languore quella notte. Amica mia, noi siamo tra gli ultimi artisti, gli ultimi grandi cuochi che lavorano con passione. Io lo so, Sofronia, che il sofrolio non esiste. Ma no, sei tu che intrugliando tutte quelle verdure riesci a tirare fuori un sapore meraviglioso. Ma siamo vecchi, amica mia, siamo sorpassati. Metà del mondo mangia troppo e l'altra metà non ha da mangiare. A che serve la nostra arte, quando a loro basterebbe un tozzo di pane, eh? Me la sai la verità, Sofronia? Anche il Gargaleone non esiste, no? Sì, anche lui è un intrugliazzo di carnazze che tirano giù temporali di sughi e fulmini di sapori. Ma Sofronia, tu hai gli occhi della femmina del Gargaleone questa notte. E non parlarono più. Quando il canto si fa più profondo, Sofronia, io domani parto per paesi lontani. Vieni con me. Cavolo, se mi piaci. Ma io sono una pianta da erbario e devo restare. Mai notte d'amore fu più calda e saporita. Mai si vide un tale menù di posizioni, mai tante ghiotte combinazioni di sospiri e grida. Camminarono fino al limitare del bosco, mano nella mano. La mattina dopo Rasputin sparì. Qualcuno dice che sia tornato nel suo paese lontano a fare il pane per i poveri. Per altri è nel Mato Grosso a cucinare per gli indigeni e qualche volta usa la tribù vicina come ingrediente. Non avemo più notizie di mio padre, di quel cuoco dagli occhi di brace. Sofronia aprì questa piccola trattoria a prezzi bassi. Cucina sempre le sue verdure, sì, ma nel suo menù da allora c'è anche un piatto di carne, il Gargaleone alla Rasputin. E se qualcuno le chiede come mai un piatto di carne in questo menù, che animale è il Gargaleone e soprattutto chi era questo Rasputin? Mia madre risponde sempre con dolcezza: era uno che si faceva i cazzi suoi.